got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 con l'identità, con la migrazione. Questa sera a cena Radio 24 abbiamo due ospiti, Chai Rocchi, buonasera Chai. Buonasera a tutti. E Matteo De Monte, buonasera. Ciao, buonasera Matteo. Sono gli autori di un libro, una graphic novel molto interessante, sofisticata nei suoi disegni, interessantissima nel testo, di Becco Giallo Editore, una graphic novel dal titolo Primavere e Autunni. È la storia, l'omaggio, ma adesso ne parleremo, lo chiederemo a loro, è una storia di immigrazione, di integrazione anche riuscita di questo personaggio, che in realtà è il nonno di Matteo. Sì. Che ha attraversato la storia dell'Italia, è arrivato in Italia negli anni 30, nei primi anni 30 dalla Cina. E questo racconto parla, mi sento di dire che parla di Milano, ma anche dell'Italia che cambia e anche della Cina, di come è cambiata la Cina. Questa è una cena, so che voi ci avete portato qualcosa. E cosa ci fate assaggiare questa sera? Allora, non possiamo che proporvi alcune portate classiche della cucina cinese tradizionale, di quella cucina che anche gli immigrati come mio nonno potevano consumare insieme, probabilmente nella pausa pranzo, nel laboratorio. Per cui riso bianco bollito, senza sale. Ed è il classico bai fan, è il cibo diciamo d'accompagnamento di base di tutti i pranzi, diciamo, cinesi. È il nostro pane. Sì, è un po' come fosse il nostro pane. E poi sicuramente un altro piatto che era, diciamo, molto molto praticato dai cinesi ai tempi sono i mien tiao. È una pasta fatta in casa, una pasta di semola, di grano fatta in casa e cotta di solito in brodo con degli spinaci. E d'accompagnamento, malgrado io sia vegetariano, sono sicuro che non mancava sulla mensa di mio nonno e di suoi amici un piatto molto molto molto ricercato e molto pesante, che sono i piedini di maiale in gelatina, una preparazione molto molto complicata che sfrutta tutta la componente grassa della cotenna del maiale per far cuocere proprio i piedini, e poi diventano così così friabili, così morbidi, che vengono serviti nella loro stessa gelatina, quindi dopo essere fatti cuocere poi vengono fatti consolidare nella stessa gelatina e si mangiano insieme al riso bianco come accompagnamento, e sono un piatto molto strong. E questo della cucina è anche un tratto distintivo anche del libro. Stavo sfogliandolo adesso, di questa Primavere e Autunni. Si ricorda il primo ristorante cinese a Milano nel 1962, che fu proprio un veicolo della cultura cinese anche in città, e come queste famiglie meticce, insomma, mettevano assieme i diversi gusti. Chai, come nasce questo libro, che dico bene che è la storia, un po' un omaggio di un'immigrazione riuscita, di un'integrazione? Sì, assolutamente. Noi ne abbiamo discusso, io e Matteo siamo sposati, ci conosciamo da molti anni e negli anni ne abbiamo sempre parlato, no? Di fare di questa storia, che prima di essere un fumetto è stato un caso studio per quanto riguarda la sociologia dell'immigrazione, ed è sempre stato un po' un nostro sogno quello di portarlo fuori dall'ambito accademico per restituirgli una dimensione così un po' più popolare, più semplice. Per cui siamo partiti dall'inizio, dalle ricerche storiche e dalle fotografie d'epoca che la famiglia di Matteo conserva E c'è da dire che queste fotografie, seppur molto belle, a parte poche, perché ai tempi non era come oggi che ci si faceva selfie a tutto andare, queste fotografie erano delle fotografie molto decontestualizzate, perché si andava dal fotografo, non c'erano le macchine fotografiche, non c'erano i cellulari. Quindi voi avete cercato dalle memorie del nonno, della nonna anche? Sì, noi avevamo più o meno, diciamo, una o due fotografie per decennio, e da quelle siamo partiti. Poi è stato Matteo, forse ce lo racconterà lui, a fare proprio lo studio del personaggio, partendo da quelle foto che poi erano le foto dei suoi documenti. E il personaggio è questo pioniere, V. Sì, noi, la sociologia delle migrazioni definisce questa prima ondata di migranti che arrivano in Italia all'inizio degli anni 30 come pionieri nel senso che sono stati degli apripista effettivamente delle rotte commerciali dei migranti, non solo in Italia ma anche in Europa. Immaginiamoci cos'era la Cina degli anni 30 e l'Italia degli anni 30. La Cina degli anni 30 era un bel casino rispetto all'Italia. Da dove proviene tuo nonno? Mio nonno viene come tutti i migranti fino alla fine degli anni 60, viene da una piccolissima regione di una provincia che si chiama Zhejiang, ed è una provincia sudorientale della Cina, e da questa regione provengono da un distretto e solo da quel distretto, e all'interno di quel distretto da una piccola area montana e solo da quell'area, e quindi hanno ricostruito con questa catena migratoria una colonia di compaesani a Parigi e poi successivamente anche a Milano. Oggi via Paolo Sarpi e il quartiere di Porta Volta sono la Chinatown più grande d'Italia, il cuore pulsante di una comunità che ha quasi un secolo di storia. Ma come è iniziato tutto ciò? Agli inizi degli anni 30, quando ancora si viaggiava in piroscafo e sulle strade c'erano più biciclette che automobili, un uomo di nome Wu venne a Milano. Era un migrante di origine cinese ed era già stato in Olanda e in Francia. Ottavo figlio di una famiglia di commercianti, Wu Lishan aveva lasciato la Cina in cerca del proprio destino ed era giunto a Milano in un periodo in cui la città era in grande espansione. Ambulantato di cravatte ai laboratori di pelletteria. Wu si sposa, la sua famiglia cresce e insieme a lui cresce anche la comunità. È il racconto dei pionieri, di quei primi maschi cinesi che diedero origine alla rete di mutuo aiuto tra connazionali, che ancora oggi sta alla base dell'economia etnica cinese. Per scoprire che al di là degli stereotipi, all'origine della comunità cinese di Milano c'è una storia di integrazione. Questo è il trailer che state ascoltando di Primavere e Autunni, e quindi Wu arrivò nel 1931 a Milano, chiamò un taxi e si fece portare in questa via vicino a Paolo Sarpi, l'attuale Chinatown. Noi abbiamo rappresentato questo arrivo come tu hai descritto, no? Con questo bigliettino e con il taxi a pedali. Lui, a dimostrare quanto questi cinesi fossero già inseriti e integrati nel tessuto socio-economico, viene richiamato da un compaesano che gli offrirà un'occupazione, la merce da vendere come venditore ambulante e un alloggio, vitto e alloggio, per cui quando lui arriva si dirige subito al quartiere di Porta Volta, che ai tempi era ancora il borgo dei Shigulat, ed è questa zona che si trova al confine con l'ultima cerchia urbana, dove ci sono proprio le mura spagnole, dove iniziavano negli anni 30 le cascine di campagna, e lì si erano già insediati dei cinesi. Quindi prima di mio nonno, negli anni 30, qualche altro cinese era già arrivato, e si era insediato in maniera così stabile tanto da poter richiamare un connazionale al quale offrire un posto di lavoro. Thank you. storia anche di un'impresa, perché lui era venditore di cravatte porta a porta, poi ha messo sul suo laboratorio un'impresa, insomma una storia anche dell'imprenditoria milanese. Sì, forse quello che si può dire è che non è stato proprio un caso, cioè lui è arrivato a Milano in un momento in cui Milano era terreno fertile per lui, nel senso che mentre il resto del mondo ancora subiva gli influssi della crisi economica del 29, Milano in epoca fascista cerca di diventare una grande capitale europea e questo è determinante per lui quando arriva. Grande fermento quindi in quegli anni in Italia dal punto di vista economico sotto il regime fascista, ma anche persecuzioni che subirono i cinesi in Italia proprio sotto il regime fascista. Una piccola pausa e ripartiamo proprio da qui. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Indovina chi viene a cena, stiamo raccontando oggi la storia di Wu, pioniere dell'immigrazione cinese in Italia. Siamo rimasti agli anni 30 quando Wu arriva in Italia e dicevamo appunto che in quegli anni la popolazione cinese in Italia, quei pochi cinesi che erano già arrivati, subirono anche le persecuzioni da parte del regime di Mussolini. Nel 1938, a novembre, vengono promulgate quelle leggi razziali che proibiranno ai cittadini italiani di razza ariana di sposarsi con persone di altre razze, di unirsi in matrimonio. Per invece cui in realtà, Wu si sposa in realtà con un'italiana. Esatto, lui si sposa sei mesi prima, per cui ce la fa per un soffio e... quello che volevo dire prima, che poi è anche uno dei motivi dell'integrazione, come dicevi tu, no? Cioè una storia di integrazione, perché lui quando si sposa con una donna italiana. Ai tempi l'immigrazione cinese era solamente maschile. Lavorava come venditore ambulante in città e in città incontra Giulia, anche lei immigrata ma dalla campagna cremonese, che lavora come lavandaia all'Acqua Marcia, come diceva Matteo, il lavatoio pubblico che si trova al confine tra l'Arena e il quartiere di Porta Volta. Ed effettivamente poi Giulia fa la differenza, perché non solo lo sposa ma gli porta in dote una serie di relazioni, un mondo, no? Che anche più avanti nell'educazione dei figli è lei che si occupa di tutto ciò che riguarda la sfera familiare, la sfera affettiva, per cui è lei il veicolo di integrazione, lei che parla in italiano ai suoi figli, che parlano l'italiano fuori casa ma che lo parlano anche in casa. Questi bambini non conosceranno la lingua cinese, non entreranno a contatto diretto fino al 1960, e sono la più piccola dei figli di Wu è del 49, per cui già bambini cresciuti. E tra l'altro alla nonna è dedicato il libro, no Matteo? A questa nonna Giulia. Sì, perché io sono nato nel 73, mio nonno è morto nel 79, per cui io ho avuto esperienza diretta di tutto questo mondo quando ero molto piccolo, e soprattutto quando questo mondo era arrivato, insomma, a un suo esito, nel senso che dopo il 70 le cose cambiano notevolmente per i cinesi che stanno in Italia. Però io questa storia l'ho sentita raccontare da mia nonna successivamente al 79, edulcorata, idealizzata nel suo racconto. L'ho sentita raccontare soprattutto da lei, quindi attraverso il filtro dei suoi occhi e della sua percezione, quindi non da un occhio cinese ma da un occhio italiano. E ci tengo a sottolineare che questa effettivamente è una storia tutta italiana, perché effettivamente noi oggi siamo abituati ormai, no, a confrontarci con la presenza di cittadini cinesi sul nostro territorio in maniera diffusa. Questa cosa va molto al di là dell'imprenditoria etnica, no? Ormai il barista è cinese, il parrucchiere è cinese, il pizzaiolo, l'edicolante, ormai anche i supermercati stanno diventando cinesi. Però il nostro fumetto ricostruisce un po' la genesi di questa situazione, no? Oggi i cinesi sul territorio italiano sono 250.000, ma come è cominciato tutto ciò? È cominciato con una piccola colonia. Mio nonno, il documento della carta d'identità che io ho di mio nonno, che è del 37, lo censisce come 86esimo cittadino cinese, è la sua carta d'identità della Repubblica Nazionalista di Taiwan, e lui è l'86esimo cinese nel 38. Thank you. primavere e autunni, questa graphic novel di cui stiamo parlando, attraverso la storia del pioniere dell'immigrazione V, si racconta un pezzo di storia d'Italia, ma anche della storia cinese. A un certo punto, il 1 ottobre 1949, quando Wu è a Milano, in Cina viene fondata la Repubblica Popolare Cinese. Wu quindi assiste da lontano a questa rivoluzione maoista, alla quale lui però non aderisce. Matteo, lui rimane fedele alla vecchia Cina che lui aveva conosciuto, per questo a un certo punto diventa un cinese senza Cina, senza patria. Lui decide di mantenere il passaporto della Repubblica Nazionalista. Tieni conto che tutti questi cinesi che sono arrivati negli anni 30 sono fuoriusciti dalla Cina prima del 49, quindi l'esperienza comunista non l'hanno proprio neanche conosciuta, e invece la loro realtà patriottica, ma proprio anche la loro formazione, è invece molto debitrice a quella che fu nel 1911 la rivoluzione repubblicana, cioè la Cina. Ma questa sua lealtà fu una lealtà isolata in realtà. A Milano tutti aderirono. I grandi leader della comunità e delle associazioni cinesi scelsero ovviamente di diventare dei cinesi patriottici e di avvicinarsi alla nuova ambasciata della Repubblica Popolare di Roma e successivamente anche al Consolato Generale di Milano, e questo gli aprì la strada per tutto. Mentre tuo nonno rimase un po' più isolato forse. Sì, se vuoi non credo che fosse una scelta contro qualcosa, ma lui conosceva solo quell'esperienza e che per lui era stata un'esperienza rivoluzionaria, perché tu devi immaginare che hai presente il film di Bertolucci, no? L'ultimo imperatore, loro sono ancora chiusi nella città proibita, non hanno visto, arriva Peter O'Toole con la bicicletta. La rivoluzione a cui aveva partecipato mio nonno e con cui era cresciuto, gli ideali della Cina nazionalista che poi va a finire a Taiwan, sono gli ideali della Cina moderna. Oggi il nazionalismo è stato in qualche modo in Cina, nella Cina moderna, ringlobato, anzi è una delle grosse spinte della Repubblica Popolare Nazionalismo, la figura di Chiang Kai-shek. È una figura che è stata in qualche modo reintegrata anche nell'immaginario, nel pantheon dei grandi leader cinesi, anche se fino all'altro giorno era il presidente di Taiwan. Però sai, questa è una questione molto delicata. Sta di fatto che mio nonno con quella scelta ai tempi credeva che si sarebbe precluso per sempre la possibilità di tornare in Cina. Pioniero 981 a rapporto. Sono pieno di forze, non ho più alcuna voglia di scappare. Voglio governare. L'imperatore è tenuto prigioniero nel suo palazzo dal giorno dell'incoronazione. Tale è rimasto dal momento in cui ha abdicato. Adesso che è cresciuto comincia a domandarsi perché è l'unica persona in Cina alla quale non è permesso varcare la porta della sua casa. Il giovedì servirai alla mensa, il venerdì netterai le latrine, il sabato laverai i pavimenti. Anche se l'imperatore è abdicato, in Cina è rimasto un simbolo di grande importanza per molte persone. Se non fossi stato d'accordo su questo, non sarei certo rimasto qui. Perché credi di essere qui? 981. Mi si accusa di essere stato un traditore, un collaboratore o un controrivoluzionario. Non è soltanto un'accusa! Tu sei un traditore! Tu sei un collaborazionista! Tu sei un controrivoluzionario! Credete che un uomo possa ritornare ad essere imperatore? I giapponesi stanno facendo di tutto per farmi passare da ogni parte. Sei di nuovo imperatrice. Questo poi ha determinato la trasformazione della comunità, cioè avvicinarsi alle autorità politiche della Repubblica Popolare significava avere accesso ai ricongiungimenti familiari, la cittadinanza e soprattutto le rimesse economiche da parte degli immigrati in Cina. Quindi la comunità è diventata quello che è diventata anche grazie alle scelte politiche che i migranti hanno fatto. Su un primo livello la vicenda biografica del nonno di Matteo, per cui i suoi amici, la sua famiglia e un secondo livello che racconta il quartiere e la città, che tra gli anni 30 e gli anni 70, che sono il periodo della nostra narrazione, cambia più volte e cambia moltissimo. C'è poi la storia d'Italia, perché comunque i cambiamenti politici e i risvolti sociali che attraversarono il paese poi determinarono anche la scelta e la vita delle persone. E infine la storia della Cina, che comunque il nonno di Matteo era un uomo colto, che per i tempi, e non solo perché era cinese, era forse raro, e quindi si trovava a fare da interlocutore, da mediatore per tutta la corrispondenza per e dalla Cina, per i suoi connazionali che non leggevano e non scrivevano, per cui lui aveva sicuramente delle testimonianze dirette di quello che stava accadendo in Cina. Perché Matteo ha deciso di raccontarla? Tu sei un disegnatore, un artista. Guarda, io sono un artista, ma sono un autodidatta come illustratore. Sono invece stato per tanti tanti anni uno studente di lingua e cultura cinese. Ho studiato a Liseo, a Milano, ho studiato in Cina, a Pechino, a Kunming, e per recuperare, diciamo, in un certo senso queste mie radici ho dovuto fare un percorso lungo e tortuoso, perché la lingua cinese non ha niente a che vedere con i nostri sistemi né di scrittura né di rappresentazione del linguaggio. E avevo cominciato a lavorare sulle foto d'epoca per la mia famiglia, stavo costruendo una specie di albero genealogico della mia famiglia, per cui avevo cominciato a lavorare sui volti, ma era solamente una collezione di ritratti. Poi è stata di Chai l'idea effettivamente di trasformare quella che è un'esperienza personale, autobiografica, però un conto, sai, è stare dentro una storia, farne parte, un conto è trasformarla poi in un racconto che catturi il lettore, no? E che sia in grado, attraverso immagini e testi, di portarti lungo una storia significativa. E quindi il lavoro proprio di scrittura è stato fatto da lei. Noi avevamo questa ambizione inizialmente di farne un lavoro di animazione, perché Chai è videomaker, quindi inizialmente pensavamo di riuscire a farne proprio un cartone, no? un film d'animazione, sì, che raccontasse un po' questa epopea borghese, questa storia familiare che però è anche una storia universale e generazionale. Di questa immigrazione cinese, nel quasi 100% dei casi, stiamo parlando proprio di migranti economici con un progetto molto chiaro, e l'Italia rappresenta ancora, per il network che in questo secolo i migranti sono riusciti a costruire, una meta d'elezione. L'immigrazione cinese che arriva ora è molto diversa da quella che arrivava ai tempi di mio nonno. Ora arrivano migranti da molte parti della Cina, dal nord-est e da anche altre zone del sud, e non più da quel villaggio da cui proveniva mio nonno. E quindi, anche se la crisi ovviamente ha fatto diminuire moltissimo i numeri dei migranti cinesi, l'Italia resta comunque una meta d'elezione. È cambiato invece il tipo di migrante. Ovviamente non arrivano più i migranti a fare gli ambulanti come dal primo gradino, no? della scala del business, ma arrivano migranti economici con un profilo molto molto più specializzato. E poi, non ultimo, arrivano molti molti ricongiungimenti familiari, e la realtà dei cinesi, costruita dai cinesi di seconda, di terza e ormai di quarta generazione qua in Italia, è una realtà molto viva. Se tu immagini che a Milano nessuna etnia ha una camera di commercio italo-cinese, solo i cinesi hanno una camera di commercio a cui sono federate sia le loro aziende cinesi che stanno in Italia, ma anche le aziende italiane che hanno rapporti con la Cina. E quindi questo ti dimostra come quella piccola colonia di un centinaio di persone negli anni, a metà degli anni 30, sia diventata oggi, noi la chiamiamo quando parliamo di questo progetto, la ethnic minority più grande e potente d'Italia. E in un certo senso però quella forse meno visibile. Sì, da meno scalpore dal punto di vista della cronaca, spesso, sì. perché la distanza linguistica è questa, prima di tutto, perché comunque è sempre meglio che lo racconti tu, ma il cinese è una lingua molto ostica, sia da imparare per noi, ma loro ragionano in un modo completamente diverso dal nostro, no? E quindi la distanza linguistica porta anche a una distanza culturale. Matteo, so che Primavera e Autunni è una citazione. Sì, è una citazione a un'opera di Confucio che porta proprio lo stesso titolo, è un'opera annalistica che la tradizione attribuisce a Confucio, uno dei cinque classici della letteratura cinese. Racconta perciò quel periodo che, così come nella storiografia cinese si chiama Primavera ed Autunni e precede l'unificazione della Cina, questo periodo che noi raccontiamo precede il vero avvento dell'immigrazione di massa dei cinesi in Italia e ne racconta l'origine, ne racconta appunto le vicende aurorali di questi pionieri, per cui Primavera e Autunni aveva anche questo significato. In più, senz'altro, la ciclicità delle primavere e degli autunni in qualche modo sottolineano un po' le vicende sia di mio nonno, del signor Wu Lishan, ma anche del mondo attorno a lui, di questo universo fatto non solo di cinesi ma anche molto di italiani, e quindi le loro primavere e i loro autunni che si scandiscono in questi 70 anni di storia. La cucina cinese è legata alla filosofia e alla medicina. Distingue gli alimenti yin, femminili, umidi e teneri, dunque rinfrescanti, come i legumi e i frutti, e gli alimenti yang, maschili, fritti, speziati o a base di carne. Un pasto deve dunque non soltanto armonizzare i gusti, ma trovare un equilibrio tra il freddo e il caldo. La successione cronologica dei piatti che si conosce in Italia e negli altri paesi occidentali, nella cucina cinese è sostituita da una ricerca di equilibrio, a partire dai cinque sapori di base: dolce, salato, acido, amaro, piccante. Non si può parlare di una cucina cinese, ma di quattro tradizioni culinarie molto diverse. La cucina settentrionale o pechinese, che si caratterizza per il largo uso di pasta, ravioli e tagliatelle. È una cucina non grassa che fa largo uso di manzo e agnello. I piatti meridionali o cantonesi sono quelli che più si avvicinano a quelli proposti dai ristoranti cinesi nostrani. I piatti tipici sono il pollo al limone e il riso alla cantonese. La cucina cinese orientale o di Shanghai è caratterizzata dalla grande presenza dell'acqua con frutti di mare e crostacei. La cucina occidentale o del Sichuan è quella che più si avvicina alla cultura indiana e del centro Asia in genere. I piatti sono più speziati e piccanti, con largo uso del peperoncino e del pepe. Io ringrazio questa sera per essere stati con noi i nostri ospiti, Chai Rocchi e Matteo De Monte, grazie e buona grazie serata. Grazie a te. Ciao, grazie. E grazie anche in regia a Peter Bescapè per l'assistenza tecnica, a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti, ciao. You've got to give a little, that's the glory.